Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Non ve ne abbiamo parlato prima perché a Natale non era il caso, ma è così, ci sono problemi a Betlemme. Benvenuti e benvenuti a questa puntata di Mebius, ora ascoltiamone i titoli. La ricerca italiana in soccorso della Natività. La chiesa di Betlemme ha bisogno di grandi esperti del legno e il CNR ha risposto alla richiesta. Antropologia della menopausa. Come nelle tradizioni culturali del mondo, questo passaggio è vissuto in modo molto diverso. 95 euro a testa per far nascere una nuova casa editrice scientifica. È la proposta per un'editoria creata dal basso. Nei luoghi di lavoro la vita è difficile, ma i problemi vanno smontati e non rimossi. Questa è la strategia psicologica più efficace. Ha scoperto il topo ragno elefante, ma la BBC lo premia oggi per le sue trappole fotografiche. È un ricercatore italiano del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Un concerto per due pianoforti. Normale? Non proprio, se si considera che i due pianisti si trovano rispettivamente a Trieste e a Parigi e sono collegati solo da una rete ad altissima velocità. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ho iniziato dicendo che non abbiamo parlato sotto Natale, perché forse non era il caso, una notizia in parte buona, in parte negativa. E ho detto ci sono dei problemi a Betlemme. Beh, lì di problemi politici ce n'è un'infinità. Sì, ecco, infatti carità. Non parleremo di quelli, di quelli scientifici. Noi parliamo di ricerca. Dove? Allora, ci sono dei problemi che fortunatamente possono essere benissimo risolti dai nostri ricercatori brillanti italiani. Stiamo parlando della Basilica della Natività, che è appunto la chiesa che è stata eretta a Betlemme, nel luogo in cui, secondo la tradizione cattolica, avvenne la nascita di Gesù. Ed è costituita appunto da una combinazione di due chiese e di una cripta, la cosiddetta grotta della Natività, appunto, della Natività, dove sì. Si ritiene appunto che fosse la grotta il luogo preciso in cui Gesù nacque. Ecco, questa basilica è stata oggetto di un rapporto dell'UNESCO che ha visto un grave deterioramento delle strutture e quindi ha predisposto un sostanzioso lavoro di restauro. Allora è stata fatta una gara internazionale e l'ha vinta un'equipe italiana, un'equipe costituita da vari ricercatori con diverse competenze. E noi stasera qui ci occupiamo in particolare dei restauri della parte legnosa, diciamo, di tutta la parte delle travi, degli stipiti, delle porte, dei portoni, delle finestre. E qui con noi stasera c'è Nicola Macchioni. Intanto buonasera Macchioni. Buonasera. Lei è ricercatore dell'IVALSA del CNR, che è appunto il centro di ricerca per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, e appunto a voi è stata affidata questa importante missione. Sì, il nostro ruolo è quello di svolgere l'indagine diagnostica sulle strutture di legno, quelle che sorreggono la copertura, di fare la datazione delle stesse strutture con metodi dendrocronologici e poi di controllare lo stato di conservazione di tutti gli infissi. Ecco, allora andiamo con ordine. Partiamo forse dalla datazione, che è uno degli aspetti più interessanti. La datazione dendrocronologica, come la chiamava lei, in realtà si tratta di contare gli anelli di crescita delle travi, del legno, no? Misurare e contare. Perché bisogna misurare lo spessore degli anelli e in base poi alle modalità di crescita dei tronchi che hanno dato le travi è possibile incastrare queste curve di crescita all'interno di curve di riferimento per la stessa specie e per determinate zone e quindi riuscire a datare gli anni in cui la pianta è vissuta. Se hanno dei dati, allora avete già dei dati sulla datazione e poi ci può dire anche qualcosa su che tipo di legno è stato usato? Partiamo dalla specie legnosa. La specie legnosa utilizzata è prevalentemente, più che una specie, un gruppo di specie, il cosiddetto legno di rovere, quercia, caducifoglia. Quindi con grande probabilità si tratta di legname di provenienza europea. Sulla datazione ancora non possiamo dire nulla perché i dati li stiamo elaborando in questi giorni e quello che possiamo fare è riferirci a dei documenti storici, uno dei quali fa riferimento a una richiesta da parte dei francescani di Terra Santa di inviare legname e carpentieri nel 1479 per rifare il tetto della chiesa della Natività. Quindi può anche darsi che risalga di quel legname lì. Facciamo un passo indietro. La chiesa è stata eretta nel IV secolo d.C. per desiderio di Sant'Elena, che è la madre di Costantino il Grande. Ecco, ma per capirci, possiamo trovare dei legni anche così antichi? Dentro sì, è possibile. È più che probabile perché in effetti le trabeazioni al di sopra degli elementi, insomma, che riuniscono le teste di tutte le colonne delle navate, sono delle trabeazioni in lignee e sono di legno di cedro, presumibilmente del cedro del Libano, quindi locale. Quindi, viste le modalità di costruzione, è più che probabile che quel materiale sia coevo con i muri della chiesa. Ecco, quindi le parti strutturali. Non del periodo costantiniano, perché la chiesa costantiniana era andata a fuoco, però quella ricostruita poi sotto Giustiniano. È stata ricostruita circa 2 secoli dopo. Sì, esattamente. E com'è possibile valutare delle strutture che obiettivamente non possono essere smontate e portate a casa? Beh, noi seguiamo una normativa che è una normativa italiana, una normativa che ha dimostrato negli anni e anche nella fase di preparazione della norma stessa di essere molto affidabile come risultati, ed è la norma UNI 11119 che si intitola, che in pratica mira alla indagine diagnostica delle strutture di legno in opera, ed è una normativa che si basa sull'indagine visuale per cercare di determinare quale fosse il legname posto in opera come qualità e come specie, e poi valutare sempre visivamente, ma anche con l'ausilio di alcuni strumenti, che cosa è successo durante il tempo, quindi dal punto di vista meccanico e dal punto di vista degli attacchi da parte dei funghi e insetti. Quindi siete stati lì, avete fatto le vostre analisi in loco? Sì, certo. Sono analisi da fare in situ, come si dice nella norma. Senta, non c'è un problema di, come dire, di anzianità del legno, cioè non necessariamente un legno che magari ha 1000 anni in più è in condizioni peggiori di quello più recente? Quello che dicono i testi e che corrisponde alla verità è che il semplice passare del tempo non comporta uno scadimento sensibile delle prestazioni meccaniche di un elemento ligneo. Quello che può succedere durante il tempo è che avvengano degli attacchi da parte di organismi e, distruggendolo, ovviamente ne limitano le capacità portanti. Ecco, lei fa parte di un'equipe di ricercatori italiani, ovviamente non è sua competenza, ma se ci può raccontare che cosa faranno gli altri gruppi di studio? Gli altri gruppi di studio si occupano ovviamente del coordinamento generale e della valutazione strutturale complessiva. C'è un gruppo di studio dell'Università Federico II di Napoli che si occupa delle murature e delle fondazioni, studio delle murature e delle fondazioni. Un gruppo di studio dell'Università di Siena che si occupa invece delle indagini di tipo storico. E infine una società canadese che ha effettuato invece i rilievi con metodo laser scanner. Ecco, Macchioni, lei che l'ha vista, è messa proprio male questa basilica? Infatti. È messa male dal punto di vista murario? No, tutt'altro. Sono muri antichi, stabili, ben costruiti, ovviamente hanno dimostrato in 1500 anni di essere... Questo è un dato, di aver certo. resistito a terremoti anche, perché è anche una zona sismica quella. Le strutture di legno hanno bisogno di un consistente lavoro, non sono a rischio di collasso, ma potrebbero diventarlo senza che si intervenga, soprattutto perché le coperture non tengono più. Allora mi raccomando, fate un buon lavoro e ci risentiamo dopo il restauro. Volentieri. Grazie Macchioni, buon lavoro. Grazie Macchioni. Buonasera. Thomas Alva Edison, grande inventore di tecnologia e anche abile imprenditore, su questo non v'è dubbio. Questo signore americano che ha operato a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, dobbiamo davvero tante cose, soprattutto quelle che hanno a che vedere con le tecnologie elettriche. Fondò una grande impresa che aveva il suo nome e che ebbe un enorme successo. Però anche i grandi, qualcosa che non funziona, la fanno, mica si può azzeccarle tutte, no? La bambola parlante, ecco, questa fu un'idea di Edison e non funzionò, commercialmente voglio dire, non ebbe successo. Come mai? Secondo me, lo capirete subito, fra qualche secondo. Prima devo dirvi che si trattava di una bambolotta di circa 40 centimetri, una bambolotta classica, come certamente potete immaginarvela, con gli occhioni grandi, tondi, fissi. Tuttavia, prendendola in mano, si aveva subito una sensazione di diversità dalle altre bambole, perché era molto pesante, qualche chilo. Era di ferro, infatti, con una intelaiatura che doveva contenere un fonografo. Il fonografo era una delle invenzioni di maggior successo di Thomas Edison. È stato l'inizio di tutta l'industria della musica. Funzionava con dei cilindri rotanti fatti di una mescola di cera solidificata sulla quale si potevano incidere dei solchi. Insomma, i primi dischi non erano dischi, ma cilindri. E poi c'era una puntina che trasmetteva le vibrazioni sonore a un altoparlante. Cosa si sentiva? Ecco, ve lo facciamo sentire, perché quei cilindri e quei fonografi nei musei ci sono e quindi si possono mettere in funzione ancora oggi. Dunque, come avrete notato, un vero strazio. Fra l'altro, questa vocina, che già allora fu definita mostruosa, dovrebbe portare un messaggio di auguri per il Natale e il nuovo anno. E tenete presente che si tratta di una registrazione fatta con un trattamento del suono, come si può fare oggi con quelle apparecchiature digitali che sono in grado di eliminare fruscii e distorsioni. Le bambolotte erano prodotte in una fabbrica che Edison impiantò nel New Jersey. Vennero messe in vendita a New York e fu un disastro, come vi ho detto. La voce non piaceva, e questo si capisce, e poi il fonografo era in una versione più piccola di quella in circolazione per ascoltare musica. Una versione che spesso non funzionava, spesso. Diciamo che su 200 prime bambole vendute, 188 furono riportate in negozio perché non si sentiva niente. Non solo, l'operazione di marketing non fu particolarmente geniale. La bambola infatti era venduta con un messaggio promozionale che diceva: questa bambola ha imparato a parlare. E dopodiché, quando parlava, aveva una voce micidiale. Poi diceva sempre la stessa cosa. Spesso non diceva nulla, e quando la gente cercava di capire cosa non funzionava e andava a vedere cosa c'era sotto, che cosa scopriva? Un fonografo. Insomma, una truffa, per dirlo in breve. Edison, anche lui, tentò di fare il furbo e gli andò male. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro quiz che ci porterà indietro di centinaia di migliaia di anni. Si è scoperto di recente qualcosa di molto particolare sui nostri antichissimi cugini, i Neanderthal. Che cosa si è scoperto? Allora, uno, analizzando delle ossa rinvenute in Germania, si è scoperto che contenevano tracce d'oro, e ci scrivete oro. Oppure, una percentuale significativa di questi nostri cugini aveva 6 dita nei piedi, ci scriverete dita. E poi, terza e ultima possibilità, erano cannibali, e ci scriverete cannibali. Dove? Beh, l'SMS è sempre il solito, 349-238-6666. Quello che si vince come libro questa settimana è La scienza di tutti i giorni di Andrea Frova, edito da Burr. In collaborazione con IBS.it. Eccoti sempre qua, Chiara. Sì, Federico. Tutto bene? Sì, benissimo. Posso iniziare con una citazione? Per Bacco. Se io ti dico, quando una donna a 50 anni butta la fiume con tutti i panni... Non sono d'accordo. Non sono d'accordo, neanche io, nonostante non rientri nella categoria. Non sono d'accordo. Oh, non rientri nella categoria, infatti adesso si capirà. Abbiamo già un ospite in linea, Michela Fusaschi. Buonasera, Michela. Buonasera a voi. Docente e ricercatrice di antropologia culturale a Roma 3, che ha scritto un articolo per lo speciale che il mensile di Scienza Newton dedica a maternità, riproduzione e fecondità. E sì, è un articolo molto interessante sull'aspetto antropologico della menopausa, della cosiddetta menopausa, che abbiamo scoperto che in altre etnie, in altri gruppi etnici, non viene neanche nominata così, e addirittura in Europa non sempre viene chiamata menopausa. È vero, Fusaschi? Sì, è assolutamente così, nel senso che quando parliamo di menopausa, dal punto di vista antropologico, facciamo riferimento a una costruzione sociale sia del corpo ma anche dell'età, e quindi non abbiamo un'indicazione univoca per parlare né di corpo e tantomeno di età. Ad esempio, in Francia si usano delle espressioni che hanno a che fare, che rimandano all'adolescenza, al ritorno dell'età. In Italia tutti sappiamo che il ciclo mestruale fa riferimento al ciclo lunare, quindi si ha la luna, e quando non si ha più la luna e si entra nella menopausa, si dice appunto non si ha più la luna, facendo passare l'idea che la donna tramonta come la luna rossa ad un certo punto. Ecco, ci sono alcune popolazioni che danno una connotazione negativa e altre che invece la danno come una rinascita, un ritorno appunto all'adolescenza, quindi una connotazione molto positiva. Assolutamente sì, nel senso che la menopausa, proprio come costruzione sociale, può corrispondere da una parte a una liberazione della donna, dall'altra parte però anche al suo opposto c'è una sua emarginazione. Quindi se noi guardiamo alla paletta delle culture, diciamo così, possiamo trovare luoghi nei quali la donna si libera e diventa un simile dell'uomo, perché non ha più il problema delle mestruazioni, cioè non ha più il problema di fare figli, detto semplicemente. Dall'altra parte però questo problema problema diventa all'opposto, quindi una liberazione da un lato, dall'altra parte però una sua emarginazione e addirittura un rifiuto sociale. Ci sono dei gruppi etnici, per esempio in Africa, che insomma con la menopausa aprono a veramente dei singolari comportamenti, che sono appunto, come diceva lei prima, da una parte sembrano essere svantaggiosi per la donna e dall'altra invece assume un ruolo quanto mai significativo. Ci citi alcuni di questi gruppi etnici nei quali veramente avvengono cose singolari? Allora, intanto potremmo partire ad esempio con le donne del Betì del Camerun, nel quali la menopausa si traduce da una parte a un'interdizione della vita sessuale, cioè non si può più avere rapporti sessuali con il marito, perché altrimenti si metterebbe a rischio tutta la società. La donna quindi diventa un eguale dell'uomo ed assume così delle prerogative maschili, può organizzare delle feste, ad esempio, che in altri luoghi non può organizzare se avesse ancora la mestruazione. In Burkina Faso, fra i Bobo, l'anziana, quindi la donna che oramai ha iniziato un suo percorso di invecchiamento, accede a dei campi che le sono prima preclusi, ad esempio ai campi divinatori, e può anche occuparsi dei bambini, ovvero sia quando le sue ossa si indeboliscono, paradossalmente lei può occuparsi delle ossa dei bimbi più piccoli e quindi li massaggia, li tratta in un certo modo, perché ha acquisito quella consapevolezza che il corpo nel suo cambiamento verso l'invecchiamento paradossalmente le conferisce. E quindi il non essere più produttiva la rende non produttiva da un punto di vista del corpo, ma quasi produttiva sociale, con una connotazione in più, ovvero sia il fatto di potersi occupare di sfere che prima le sono precluse, perché in società dove c'è una dominazione maschile profonda, la menopausa le consente di rinversare gli ruoli, diventa lei un uomo e quindi accede delle prerogative che prima non ha. Ecco, senta, proprio in questa direzione, cos'è questa cosa curiosa del fare la pipì in piedi? Sì, è una prerogativa di un'altra etnia africana. Sì, le donne che diventano, come dire, non più produttive, quindi essendo appunto assimilate agli uomini, possono comportarsi come gli uomini, quindi possono sotto il loro pagne, che è questa stoffa che ricopre e che cinge i loro fianchi, fare la pipì in piedi, proprio perché sono diventate uguali degli uomini, hanno questa prerogativa. Niente, dopo 50 anni si diventa uguale agli uomini, perfetto. Sì, la cosa singolare è che in molte altre tradizioni invece gli uomini e donne tendono a fare la pipì, anche gli uomini fanno la pipì seduti. Vabbè, ma non ci dilunghiamo, ecco. Invece ci sono delle particolarità non solo in queste etnie dove le tradizioni appunto sono forti, ma anche in Europa, nella stessa Italia ci sono delle differenze appunto su come viene percepita la menopausa. Beh, assolutamente sì. Io mi ricordo ad esempio quando io ebbi le prime mestruazioni, mia madre mi diceva di non toccare le uova e i fiori perché sarebbero appassiti, e cose che invece non succede più, adesso non si dice neanche più. E contestualmente, ad esempio, nel Sannio Beneventano, le donne, le suocere, quelle che noi, diciamo, nell'immaginario popolare erano le suocere, erano le donne anziane che non avevano più le mestruazioni, ed erano quelle che ricoprivano uno status sociale di prerogativa sociale incredibile, potendo appunto dominare, potremmo dire così, la sfera delle giovani mogli che gli uomini si portavano a casa. Si diceva infatti la mia donna, la mia signora, per dire che la suocera, la terrificante suocera, diventava con la menopausa la capofamiglia simbolica, però sappiamo che in antropologia i simboli contano molto. Senta, invece in questa nostra società, quella dei labbroni, dei 5.000 interventi di chirurgia estetica, qui sta cambiando tutto rispetto a queste componenti culturali di un processo come questo, che è la menopausa. Sì, adesso proprio si diventa adolescenti quasi, si vuole, cioè, ritornare... Qui si sta decostruendo e ricostruendo tutto? Assolutamente sì, perché la menopausa non è più vissuta come un passaggio fisiologico ad un'altra corporeità, ad esempio, ma si assimila la menopausa a una patologia, cioè un passaggio patologico che paradossalmente deve essere curato, ad esempio attraverso gli ormoni. Quindi l'idea di prolungare una simbolica, poi su un piano proprio simbolico della femminilità, anche un ritorno della mestruazione, però indotta attraverso l'utilizzo di ormoni e anche la possibilità di prolungare così paradossalmente una possibilità di maternità, perché sappiamo che le nuove tecniche su un corpo anche in menopausa fanno sì che la donna possa anche durante la menopausa procreare, quindi quel margine del non essere più e del poter essere ancora oggi in alcuni universi culturali, non in tutti evidentemente, diventa una possibilità in più, con tutti i rischi di responsabilità sociale che questo comporta. Bene, grazie Fusaschi, veramente interessante questa lezione di antropologia. Grazie a voi. Arrivederci. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Ho in linea un editore matematico, un matematico editore, adesso ce lo dirà lui, Daniele Gutier. Buonasera Gutier. Buonasera. Allora, editore matematico o matematico editore? Forse matematico che è diventato editore. Matematico che è diventato editore, nasco matematico. E poi è diventato editore. Sono stato per molto tempo, poi mi occupo per anni di comunicazione della scienza e da un anno e mezzo a questa parte covo il progetto di una casa editrice e adesso parte. Noi abbiamo intitolato 95 euro a testa per far nascere una nuova casa editrice scientifica che nasce dal basso, cioè praticamente voi chiamate i lettori ad essere fondatori della casa editrice. Sì, noi pensiamo che una casa editrice sia prima di tutto una comunità di persone, sia una comunità di autori, una comunità di lettori, e gli editori sono al servizio di questa comunità. Chiediamo un gesto di partecipazione, chiediamo un gesto di fiducia, chiediamo che gli aspiranti lettori comprino oggi con 95 euro tutto il catalogo del 2011. Che sarà fatto da? Da 11 titoli. 11 titoli. Oh, dunque, è una casa editrice scientifica, sono tutti titoli di carattere scientifico, no? Come sono tutti titoli di carattere scientifico. Va bene. Sono titoli che parlano ai giovani adulti, ai nuovi cittadini della società della conoscenza, che si interrogano su come la scienza entra nella nostra società, e che parla ai ragazzi, al mondo della scuola, perché riteniamo che la scienza sia un pezzo importantissimo, essenziale, ineludibile dell'educazione di tutti. Ah, quindi c'è anche una definizione del pubblico. Bene, allora la gente vi dà 95 euro a testa, voi avete la cifra iniziale per partire con le attività editoriali. Questa assolutamente, con questi 95 euro ci aiutano a stampare i primi 11 libri, quelli del 2011, che noi nel tempo, tre alla volta, gli spediamo. Oh, ecco, questo è una cosa importante, perché loro con 95 euro poi si comprano 11 libri. 50 euro di libri. Che è un buon prezzo. Che è un buon prezzo, il prezzo che riusciamo a fare. Ci sembra un prezzo equo per rispondere a un gesto di fiducia molto forte, perché tutto sommato sono lettori che comprano dei libri che non hanno ancora visto, quindi si fidano molto di noi. Quando esce il primo? Il primo esce a inizio di febbraio, i primi due escono a inizio di febbraio. Titoli ci sono già, sì? I titoli ci sono già, sì, Verso l'infinito ma con calma, è un libro racconto che parla di matematica, è il mio amore, scritto da un brillante insegnante che si chiama Zanavi. Sì. E un libro invece totalmente diverso, un manuale di sopravvivenza energetica scritto da Andrea Mameli, che ci racconta una manciata di trucchi essenziali per risparmiare 1000 euro nella vita domestica, essendo anche ecologicamente consapevoli e sostenibili. Oh, buono. Allora, due buoni titoli. Mi pare che abbiate inventato qualcosa per lanciare la vostra casa editrice. Un gioco, qualcosa del genere? Sì, noi da oggi siamo online con un gioco sorpresa che chi va a collegarsi sul nostro sito scienzaexpress.it troverà, con la possibilità di vincere un coupon che consente di acquistare un certo numero di libri, e questo gioco è un gioco a tema scientifico, un gioco che ruota attorno a quello che è il nostro claim, il nostro motto, cioè che i libri devono essere fatti con meno atomi e più bit. Meno atomi e più bit, un po' meno materia e più testa. Sì, perché noi vogliamo spostare la produzione, l'ideazione, la diffusione dei libri il più possibile dal mondo reale al web, perché ci sembra che oggi gli italiani comincino a essere maturi, interessati, a guardare con rispetto e fiducia anche a quello che succede in rete. www.scienzaexpress.it per partecipare al gioco della neonata casa editrice Scienza Express, si chiama. Esattamente. Daniele Gutier, grazie e auguri per la casa editrice. Grazie nascente. A voi e buon inizio anno. Arrivederci. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Francesco Rovero, buonasera. Buonasera a voi. L'ultima volta che ci siamo sentiti era per il toporagno, se non sbaglio. Esatto, il toporagno elefante gigante. Un paio d'anni fa l'ha scoperto lei in Africa. Certo, in Tanzania nel 2008. Francesco Rovero, conservatore per la biodiversità tropicale del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Chiara, dici qualcosa sul toporagno, ricordacelo. Sì, diciamo due cose. Beh, preferirei che ce lo raccontasse Francesco. Era un toporagno elefante, denominato così perché ha una proboscide particolare. È un animale veramente strano che voi avete individuato appunto un paio d'anni fa in un parco meraviglioso della Tanzania, non molto battuto dai turisti. Sì, sì, giustissimo. Si chiama toporagno elefante appunto non perché è un toporagno che forse è noto, insomma, un animale noto agli ascoltatori, in realtà è una specie piuttosto rara e endemica dell'Africa. Senta, topo, ragno ed elefante, messi insieme è un mostro. Come grande? Ci dica quanto è grande. Allora, è piuttosto grande, 700 grammi e 60 centimetri. Lei pensi a un piccolo coniglio, per esempio. Ah, un coniglietto. E tra l'altro questo è stato il più grande del genere mai scoperto. Se ne conoscevano altre tre specie di dimensioni inferiori. Per i curiosi, il nome scientifico? Si chiama Rinkochon uzunguensis. Ecco, Rinko, che ricorda appunto la proboscide. Sì, ma ora è tornato agli onori delle cronache scientifiche per un'altra scoperta. Infatti, all'interno di una sezione che si chiama appunto Nuove Scoperte, dove sono state premiate le immagini dalla rete BBC, lei è stato nuovamente premiato perché questa volta ha presentato delle immagini scattate nelle trappole per animali. Ovviamente non trappole a scopo di caccia. Ma sono per studio. Beh, esatto. Come funziona una trappola fotografica? Cosa vuol dire? Sono delle semplici macchine fotografiche, ultimamente sono digitali, collegate a un sensore che le fa scattare ogni volta che passa un animale o qualunque altra cosa. E sono usate tantissimo nel nostro campo, nello studio faunistico, e negli ultimi 10 anni hanno veramente cambiato il modo di studiare gli animali più rari e quelli più difficili da vedere. E lei è stato premiato perché? Che cosa ha fotografato? La BBC ha fatto un premio, appunto il Camera Trap Award of the Year, cioè la fototrappola dell'anno, per varie categorie, ritratti, comportamento, nuove scoperte. Io sono stato premiato per la foto di un antilope, questa volta un antilope piuttosto grande, che vive solo in Tanzania e di cui abbiamo trovato una nuova popolazione. Che è una bella notizia perché in realtà è un'antilope molto rara, molto minacciata per caccia e degrado delle foreste, quindi trovare una nuova popolazione è un risultato interessante. Ah, cioè il premio è dato al fatto che con questo sistema della trappola è riuscito a fotografare un animale molto raro. Molto raro, molto difficile da vedere, io stesso l'ho potuto vedere solo un paio di volte in 10 anni di lavoro, quindi... Perché è assolutamente non avvicinabile dall'uomo e quindi è solo con un sistema come questo che possiamo cercare di individuarlo. Esatto, peraltro è lo stesso tecnica che nel 2005 ci ha permesso di ottenere le prime immagini del toporagno elefante che poi ha dato avvio al lavoro per descriverlo come una nuova specie. Ecco, e l'habitat è lo stesso, sempre nello stesso punto della Tanzania avete scoperto queste specie, giusto? Sì, sono delle montagne coperte di foresta pluviale nel centro-sud della Tanzania. Senta Rovero, proprio il meccanismo, riesce a spiegarcelo? Cioè c'è una macchina fotografica, ci sono dei fili, l'animale, com'è che è il set? Guardi, in realtà adesso sono prodotte soprattutto negli Stati Uniti e sono delle unità piuttosto piccole, come poco più di una normale macchina digitale, però hanno un sensore, come quello si immagini dei cancelli, degli allarmi, oppure di quelli che fanno accendere la luce, che quando passa un animale davanti, ovviamente c'è un flash, il flash tra l'altro è a infrarosso, per cui l'animale non lo percepisce, e fa scattare la macchina, e quindi si ottengono tantissime foto, perché poi essendo macchine digitali, si possono accumulare nelle schede di memoria anche migliaia di foto in poche settimane, letteralmente di tutto quello che passa davanti, e hanno davvero rivoluzionato il modo di studiare la fauna selvatica, soprattutto in zone tropicali dove insomma ci sono certe difficoltà altrimenti a studiare. E poi voi ricercatori tornate sul posto e vi prendete la schedina, o è talmente intelligente che vi manda i dati direttamente nel computer? In remoto. Ma c'è sicuramente la tecnologia anche per quello, però ancora non la usiamo, insomma sostanzialmente andiamo in foresta, mettiamo le macchine perché poi è importante. È più suggestivo, direi. Sì, anche, diciamo così. Senta, ma le foto all'infrarosso sono tutte verdi? Beh, di notte sono in bianco e nero, diciamo, verdone, ah. Sì, è vero. Poi di giorno sono a colori, quando è flash. Vabbè, Federico, non è che si può tenere tutto. Ma ne date una copia poi all'antilope? La prossima volta vado, senz'altro. No, piuttosto ne mandi una copia a noi, che la mettiamo sul sito. Questo sì. Molto volentieri. Va bene, grazie Rovero e veramente buon viaggio. I suoi viaggi sono sempre meravigliosi e poi sappiamo che la Tanzania è una terra veramente fantastica. Grazie molto a voi. Arrivederci, buon lavoro, buone foto. Grazie a voi. È stato indubbiamente un anno non dei migliori e molte delle difficoltà incontrate, forse la maggior parte, sono emerse nei luoghi di lavoro, ma in generale la dimensione collettiva che troviamo nei luoghi di lavoro è problematica e in non pochi casi forse è anche molto problematica. C'è chi studia queste condizioni, sono degli psicologi, uno di loro è qui con noi questa sera, Achille Orsenigo. Buonasera Orsenigo. Buonasera. Devo però aggiungere che lei non studia le criticità dei collettivi di lavoro per una attività di ricerca teorica, perché lei fa parte di un gruppo, lo studio APS, che è chiamato a intervenire in questi contesti per cercare appunto di migliorare le cose. Di recente avete fatto un convegno dedicato alla sofferenza, titolo riferito appunto alle situazioni di cui ho appena detto. Allora, in un documento di presentazione del convegno leggo la frase seguente: la vita è fatta di fatiche, paure, noia, passioni, illusioni, malesseri, sofferenze, scoperte, ricerche, ed è vero, è così. Dietro però questa breve ed efficace sventagliata di termini, io so che voi avete una tesi molto particolare. Quale? Ma in sostanza, diciamo, un po' differentemente da quello che forse si sente spesso dire, che la sofferenza è una delle parti della nostra vita, una parte che può essere anche interessante, e che non, quindi non è che è una questione di eliminare la sofferenza affrettatamente cercando di creare situazioni di benessere a ogni costo, ma che quello che a noi sembra interessante è cercare di usare, valorizzare anche le situazioni di sofferenza per comprendere a cosa rimandano, a cosa sta dietro a questa situazione di malessere che si incontra anche nelle organizzazioni lavorative, mentre frequentemente quello che si pensa, la sofferenza uguale patologia, quindi è qualcosa da eliminare rapidamente. Sì, quindi voi siete chiamati e un po' la domanda è togliamola di mezzo, mentre invece voi proponete invece di gestirla. Sì, nel senso che spesso ci viene richiesto di fare degli interventi che potrebbero essere un po' pensati come la pillola per eliminare un malessere, e molto spesso è pensato questa sofferenza come un problema della singola persona, come dire, c'è quella persona lì, c'è quel manager che sta patendo molto e quindi eliminiamola, cosa potete fare voi per eliminarla? Mentre quello che pensiamo che sia più interessante è cercare di capire cosa sta dietro, quali sono le ragioni che hanno portato a manifestare dei sintomi che possono essere delle sofferenze psichiche o fisiche delle persone nelle situazioni lavorative. E quello che voi verificate è che in media non c'è proprio questo atteggiamento, cioè se voi proponete un intervento di questo genere c'è una certa sorpresa, insomma. Sì, c'è una certa sorpresa e anche lo scoprire che effettivamente se non si ha fretta si possono scoprire cose interessanti del funzionamento organizzativo. In una delle situazioni, ad esempio, il proprietario di un'azienda aveva chiesto un nostro intervento perché c'erano due manager che erano stati male, uno era finito anche a pronto soccorso e la sua questione era come posso aiutare quella persona, e poi lavorando assieme, cercando di capire cosa stava dietro, si è visto che c'erano dei problemi che erano un po' più complessi e che trattati adeguatamente hanno portato a una situazione molto più soddisfacente delle persone. Perché la sofferenza può essere indice appunto di può avere cause lontane che invece con un'azione così di rimozione rapida non vengono prese in considerazione. Le chiedo questo, nei collettivi effettivamente, quando poi voi proponete questa idea di gestione, trovate delle persone che vi dicono beh, ma però perché non eliminarla, e sono un po' deluse, oppure invece capiscono che si può gestire, che è una buona strada? Sì, è una buona storia, perché quello che cerchiamo di fare è differenziare, nel senso capire qual è la sofferenza che effettivamente bisogna puntare a eliminare, perché effettivamente è una sofferenza inutile e dannosa, e quali sono invece delle situazioni di malessere che vanno gestite, che fanno parte della vita lavorativa e che aiutano in qualche modo a orientare il lavoro dei gruppi per riuscire a essere più efficace, più efficiente anche nel rapporto con i clienti. Fondamentalmente la questione è anche capire in che misura la sofferenza è una fatica che ha perso di senso. Allora, molto spesso le persone, quando ritrovano un po' il senso rispetto al lavoro che stanno facendo, alle scelte che si stanno compiendo, sono disposte anche a sopportare in qualche modo una quota di sofferenza, perché la vedono finalizzata a raggiungere degli obiettivi che sono degli obiettivi che meritano di essere perseguiti, per cui vale la pena combattere, impegnarsi, allearsi. E qui ritorniamo alla frase iniziale, cioè o si prende la vita nel ventaglio complesso di tutte le sue emotività, oppure si porta a casa poco. Sì, anche perché, diciamo, un po' paradossalmente tutto l'investimento che si sta facendo, almeno in termini sostanziali, ma a volte in termini di immagine, sul benessere, porta a una certa quota di confusione, cioè nel senso che le persone pensano che se stanno male vuol dire che sono loro che hanno sbagliato qualcosa, mentre a volte non è così. Le organizzazioni, noi diciamo, non sono delle spa, non sono dei centri di benessere, e quindi è iscritto nella vita lavorativa una certa quota non solo di fatica ma anche di sofferenza. Il problema è come gestirla e come fare in modo che sia sentita come fertile, cioè che sia un po' anche una persona che fa sport sopporta una certa quota di fatica e di sofferenza, ma il problema è che sia finalizzata, che gli serva qualcosa, che non sia un'operazione sadica o masochistica. Grazie Ossanig e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La domanda del nostro quiz era la seguente: che cosa si è scoperto di recente di molto particolare sui nostri antichissimi cugini, quelli di Neanderthal? Allora, avevamo detto tracce d'oro nelle ossa, è una tremenda falsità, ma ormai siete abituati al fatto che nei nostri quiz c'è sempre qualcosa del genere, una gigantesca fesseria. Non avevano sei dita nei piedi e invece erano cannibali. Non è detto che lo fossero tutti, badate, in una grotta in Spagna si sono trovati resti però inequivocabili di pasti a base di, come possiamo dire, amici, parenti con cui avevano litigato. Questo purtroppo non lo sapremo mai. Invece un altro interrogativo è il seguente: se volete suonare Bach al piano a Parigi in una di quelle performance a quattro mani e quindi avete bisogno di un collega pianista, pure lei o lui, che sta a 1000 chilometri di distanza, come si fa? Oggi si può, ve lo spiega Barbara Gallavotti. Due pianisti che si esibiscono suonando musiche di Johann Sebastian Bach, in particolare il terzo concerto brandeburghese e poi anche di Max Reger, la suite per due pianoforti, opera 16. Loro sono Teresa Trevisan e Flavio Zaccaria. Il pubblico ascolta. Beh, è tutto normale? È quasi tutto normale, perché uno dei due musicisti in realtà suona dal Conservatorio di Trieste, mentre l'altro suona dal Centro Pompidou a Parigi. Ed anche il pubblico in realtà è un po' a Trieste e un po' a Parigi. Insomma, un piccolo miracolo tecnologico che sta nel fatto che il pubblico non si accorge dei circa 1000 chilometri che dividono i due esecutori, perché il suono viaggia lungo reti ad altissima velocità che sono state concepite al servizio della ricerca. Il tempo impiegato dalle note per compiere il percorso è di appena 27 millisecondi. A questi si aggiungono 20 millisecondi che servono per la riproduzione e fa 47 millisecondi. Un tempo che è comunque inferiore ai 60 millisecondi, che sono quelli che l'orecchio umano comincia a percepire come una pausa. Ne parliamo con Claudio Allocchio, del Consortium GAR, che è l'ente che si occupa della gestione della rete italiana per la ricerca. Buonasera. Buonasera a tutti. Perché non sarebbe possibile fare un esperimento del genere con le reti commerciali, tanto per cominciare? Beh, perché le reti commerciali sono concepite con un paradigma filosofico completamente diverso da quello della ricerca. Sono concepite con l'idea che è l'utente che scarica informazioni dalla rete, quindi gli viene data tanta banda per riuscire a scaricare filmati, musica, informazioni, eccetera, eccetera, mentre l'utente non può caricare informazioni sulla rete dall'altro campo. Mentre le reti della ricerca sono concepite con l'idea originale di internet, che servono per scambiare informazioni tra due utenti che sono alla pari. Noi, per fare il concerto tra Trieste e Parigi, avevamo ovviamente il concertista che riceveva un sacco di informazioni dall'altra parte, ma in contemporanea le spediva anche lui. quindi aveva a disposizione una banda grandissima. Ecco, questa differenza si traduce per chi ascolta in un ritardo maggiore. Se aveste fatto questo stesso esperimento con le reti normali, voi che ritardo avreste percepito fra un esecutore e l'altro? Ma se l'avessimo fatto con una rete normale, a parte che forse non ci saremmo riusciti perché la banda era inferiore a quella che ci serviva, avremmo ottenuto un ritardo da 3 a 4 volte superiore nel migliore dei casi, nei casi in cui però c'è una connessione con fibra ottica. Quindi superiore al secondo? Sì, sì, assolutamente. Una cosa assolutamente percepibile che non si riesce a compatire in nessun modo come un suonare insieme o anche un parlare insieme. Da Trieste a Parigi, possiamo immaginare un giorno concerti in cui gli esecutori sono sparsi in tutto il mondo? Non so, penso a un concerto magari per un'opera di Beethoven con esecutori in tutti i continenti? C'è la legge della fisica che ci dice che per il momento ce lo possiamo soltanto sognare. Purtroppo c'è la velocità della luce. Anche se la Terra sembra piccola rispetto alla velocità della luce, facendo un calcolo molto approssimato, per andare dall'Europa alla costa est degli Stati Uniti ci vogliono almeno 40 millisecondi. E stiamo calcolando di un calcolo teorico. In più ci vuole tutto il tempo che l'elettronica moderna ci impiega per trasferire i dati tra l'Europa e gli Stati Uniti. Nella realtà, oggi nel migliore dei casi ci mettiamo 130 millisecondi per arrivare a New York dall'Europa. E viste le leggi della fisica, comunque non c'è grosso margine di miglioramento. Forse non ce la farete mai. Non ce la faremo mai sicuramente ad arrivare in Australia. Se i nostri fisici ed elettronici fossero abbastanza bravi, e col tempo ci riusciremo a distribuire il carico di lavoro sui vari apparecchi di rete e farlo diminuire dai 130 a forse 10, potremmo mandare più veloce la luce nelle fibre ottiche riducendola ancora un poco. Diciamo che a pelino pelino, forse tra Lisbona e New York ci possiamo provare, però oltre non ci andremo mai. Ecco, ma qual è lo scopo ultimo di questo esperimento? Si chiama Progetto Lola e non è solo un divertissement, un gioco intellettuale, immagino. No, assolutamente no. In realtà è un'esigenza che ci è stata messa sul piatto da vari esecutori e concertisti musicali che hanno un problema molto molto pressante nella loro vita quotidiana, il tempo. Loro spesso e volentieri devono provare un concerto e non hanno tempo per riuscirlo a fare nella maniera con cui vorrebbero. Io ieri sera ero ad un concerto che ha cominciato 20 minuti in ritardo perché orchestra e solista si erano trovati nel pomeriggio e dovevano ancora finire di provare. Noi vogliamo dargli la possibilità di poter effettuare le prove con tutto il tempo che gli è loro necessario e lasciare a loro il tempo, per esempio, poi per dedicarsi ad altro come l'insegnamento, l'esecuzione, le registrazioni e così via. È proprio esattamente una questione di tempo che oramai quasi tutti loro non hanno e si lamentano di non riuscire a fare il massimo delle performance che potrebbero fare perché non hanno avuto il tempo di provare. Ecco, interessante ovviamente anche dal punto di vista didattico. Penso a studenti che sono in sedi molto periferiche che potrebbero avere l'insegnamento di un musicista famoso che sta in un luogo centrale. Esatto, anche se per insegnare in realtà poi avere un tempo di trasmissione così basso non è fondamentale perché è un dialogo. Per esempio uno studente ha delle enormi difficoltà se vuole provare a suonare con una grande orchestra, perché o si trasferisce fisicamente dove l'orchestra c'è, oppure non lo può fare. Con un sistema del genere però uno studente che sta a Trieste o a Milano potrebbe provare con la London Symphony Orchestra senza muoversi, usando i buchi di spazio che la London Symphony gli mette a disposizione. E quindi è fondamentale anche per l'educazione una cosa del genere. Dal vostro punto di vista di Rete Italiana della Ricerca, che cosa vorreste fare adesso? Qual è il vostro prossimo passo? Beh, noi siamo già riusciti a connettere tutte le istituzioni di ricerca e scientifiche classiche, diciamo così, quindi enti di ricerca che si occupano di fisica, di biologia, di medicina e così via. Vorremmo riuscire a portare anche la nostra rete, che è molto più alta come prestazioni, anche in quella parte di educazione che si occupa della parte umanistica, della parte artistica, per esempio le accademie d'arte, i conservatori e così via. Per gli istituti medici ci siamo riusciti perché il Ministero della Salute ha deciso di finanziare con un grosso finanziamento il loro collegamento ad alta velocità. Purtroppo questa parte del mondo umanistico non ci siamo ancora riusciti perché stiamo cercando in qualche modo di arrangiarci e trovare delle soluzioni locali. Al momento collegati abbiamo soltanto il Conservatorio di Trieste, quello di Milano e quello di Cuneo, perché sono state delle situazioni abbastanza fortunate in cui è stato possibile farlo con quello che c'era a disposizione come strutture e finanziamenti. Ci sono degli altri casi, per esempio il Conservatorio di Lecce, che vorrebbe fare delle lezioni in contemporanea con l'Australia, ma che uno si trova a Lecce, quindi in un posto strutturalmente svantaggiato e non ha i finanziamenti per riuscirlo a fare. Noi stiamo vedendo se per esempio dal Ministero dei Beni Culturali o dell'Università della Ricerca riusciamo a rosicchiare qualcosa per riuscire a connettere tutti quanti. Con la situazione che c'è adesso ovviamente certo. È una richiesta che ce la mettono in coda, però continuiamo a provarci. Bene, grazie Claudio Allocchio, buonasera. Buonasera. questo. In queste settimane, mesi di ghiaccio, ghiaccio anche sulle strade, si sente spesso parlare del sale, a volte anche se ne sente parlare polemicamente perché si dice non è stato messo il sale sulle strade, quindi il ghiaccio è rimasto, ma può sembrare strano, ma in un paese come la Germania, certamente un paese avanzato, addirittura si danno multe salatissime a chi mette il sale sulle strade ghiacciate. Per parlare di questa cosa ho ospite qui con me stasera Claudio Capocelli. Capocelli, ciao. Ciao, buonasera. Ci diamo del tu perché sì, sei un collega giornalista, direttore di Strade e Autostrade, bimestrale italiano, summa teorica pratica di tutto ciò che riguarda strade e anche autostrade, non solo in Italia ma a livello mondiale. Ecco, allora Capocelli, perché, sì, perché addirittura in Germania c'è questo divieto totale? Le istituzioni non lo usano, ma anche se un privato mette del sale sulla strada arriva a pagare 500 euro di multa. Sì, mi sembra una cosa un po' esagerata, è da poco che hanno introdotto questo sistema un po' coercitivo, ma probabilmente perché si sono resi conto che comunque ci sono delle alternative anche al sale da disgelo per il ghiaccio e per la neve, per sciogliere la neve. Allora, il sale in Italia non è vietato, il sale nel senso cloruro di sodio oppure carbonato di calcio che si usa normalmente per cercare di prevenire la formazione del ghiaccio, certamente in Italia il sale lo si usa in modo comunque più oculato di prima, perché ci si è resi conto comunque che rimane dannoso per le infrastrutture, non tanto per l'asfalto quanto per tutte quelle infrastrutture in calcestruzzo che sono ai margini delle strade, tipo cordoli piuttosto che New Jersey o diciamo canalini di scolo, perché il calcestruzzo è molto aggredibile dalla soluzione salina e dalle salamoie, in quanto è comunque materiale poroso, e poi è chiaro che questa salamoia viene a contatto con le armature e il ferro arrugginisce rapidamente, si gonfia e spacca, e quindi crea un grosso disastro. In Germania hanno moltissime strade in calcestruzzo. Uno dei motivi per cui il ghiaccio viene bandito, perché loro usano molto i lastroni di prefabbricati di calcestruzzo, che chiaramente hanno delle armature in ferro che, se sono chiaramente vengono a contatto con questa salamoia, poi si disgregano facilmente. Però loro accampano anche problemi di tipo ambientale. Dicono. Sì, certamente questo rimane un problema anche per l'Italia, perché evidentemente ai margini delle strade ci sono campi, ci sono alberi, ci sono c'è del verde che viene chiaramente danneggiato dalla salamoia, perché poi non cresce più nulla. Insomma, comunque anche se l'acqua venisse raccolta e poi dispersa in malo modo nei campi, è acqua comunque contenente prodotti anche oli e materiali di sversamento sulle infrastruttura stradale, in più ci si mette anche il sale oppure il sale che può essere cloruro di sodio o NaCl, carbonato di calcio eccetera, e allora tutto questo inquinante poi andrebbe a disturbare l'equilibrio biologico della fauna, della flora eccetera. Mentre invece in Germania usano degli altri particolati, no? Più... Sì, magari forse anche soluzioni più mirate, più blande, ma soprattutto probabilmente del ghiaietto, del pietrischetto, che alla fine aumenta il grip sia sui marciapiedi che anche nelle strade, però non inquina dal punto di vista chimico, ma può forse d'altra parte, comunque non è un qualche cosa che da sottovalutare, perché va magari a intasare gli scarichi delle fogne, perché comunque è un materiale inerte, sono sassolini, sono prodotti lapidei che evidentemente aiutano a disgregare la formazione delle lastrine di ghiaccio, ma nello stesso tempo non poi si dopo non si sciolgono, vanno poi a disperdersi nelle fognature, insomma. Certo. Grazie Capocelli. Prego, buona serata, grazie a voi. Qui finisce Mebius di questa settimana, torneremo fra 7 giorni con altre notizie, perché come si dice nella nostra sigla, il viaggio nella scienza è senza fine. Buona serata a tutti e tutte.